folletti, folletti, folletti, folletti, folletti. Vedo folletti, vedo folletti, vedo folletti, vedo folletti, vedo folletti, vedo folletti, vedo folletti, vedo. Vedo folletti, vedo, folle di netti, vedo folli integrati perché farmaci perfetti, dosati su misura li han portati ad essere lontani dai difetti che li ha resi dannati. Vedo bambini quieti, perché per quelli irrequieti ha fatto come al folle con pasticche quotidiane, i genitori sono lieti. Vedo storie metropolitane interrotte da storie di fame, cercatori d'oro accontentarsi di stentare, mentre le persone sono sempre più lontane e più corrotte. Vedo poeti batter cassa senza conversare, scalpite a malapena dagli sguardi biechidi, commercianti onesti che hanno assunto altri poeti con contratto interinale. Vedo l'indifferenza su ste facce già sedotte fin dai tempi dell'infanzia, da vetrine contenenti l'apparenza, pronte a indebitarsi o gettarsi nell'assenza, usi e costumi di una vita senza alcuna appartenenza. Vedo storie troppo strane, cose che non posso neanche raccontare, cose che mi fanno pensare vita infame, ma sono solamente storie quotidiane. Vedo storie troppo strane, cose che non posso neanche raccontare, cose che mi fanno pensare vita infame, ma sono solamente storie quotidiane. Vedo folletti, non sono più in me, perché non sono come te. Se non sono come te, subito pensi che il mio sé sia corrotto dai difetti. Non guardo giochi a premi reality sfigati, non ascolto quella musica prodotta per i ritardati, ma una panoramica del mondo che mi porta ad avere affetto per la classe dei reietti. Sono affetto da una variante strana dell'Alzheimer che, ahimè, mi fa dimenticare i tuoi cliché, insegnamenti propedeutici, subliminali. Questi motivi dei miei test antisociali, il perché della mia vista offuscata, che non mi fa guardare la realtà con gli occhi della classe agiata. Per la tua testa che non varia, adesso tasta la casta dei paria, e percepisci l'energia situata in un'anima dannata. In questo è il tuo presente, tu vorresti eliminare il poeta ancora in cassa, ma in silenzio sa tramare il suo corpo ancora in cassa, ma la mente già volata, estesa in uno spazio così ampio che non riesci neanche a immaginare, cogliendo verità che non potrai trovare nella tua realtà falsata. Vedo storie troppo strane, cose che non posso neanche raccontare, cose che mi fanno pensare vita infame, ma sono solamente storie quotidiane. Vedo storie troppo strane, cose che non posso neanche raccontare, cose che mi fanno pensare vita infame, ma sono solamente storie quotidiane. Se le canto, ne parlo, le narro agli addetti, mi guardano schifati come guardano gli insetti, e poi si fanno una risata e mi raccontano che qua non è il mondo che non va, ma io che vedo folletti. Se le canto, ne parlo, le narro agli addetti, mi guardano schifati come guardano gli insetti, e poi si fanno una risata e mi raccontano che qua non è il mondo che non va, ma io che vedo folletti. Storie troppo strane, cose che non posso neanche raccontare, cose che mi fanno pensare vita infame, ma sono solamente storie quotidiane. Se le canto, ne parlo, le narro agli addetti, mi guardano schifati come guardano gli insetti, e poi si fanno una risata e mi raccontano che qua non è il mondo che non va, ma io che vedo folletti.